Questa possibilità di comunicare agli ascoltatori di Radio Onda Rossa, insomma, l'evento che sicuramente poi avrà altri appuntamenti un po' più, diciamo, militanti. Io sono Gualtiero Lunni, portavoce del comitato che si batte da 22 anni contro questa opera. Abbiamo vissuto tantissime esperienze, tantissime amministrazioni in maniera trasversale, quella di Storace, quella di Marrazzo e oggi, diciamo, quella della Polverini, o comunque attualmente ex Polverini. Quindi noi abbiamo fatto questo corteo perché il 3 agosto hanno approvato al CIPE il progetto definitivo dell'autostrada, e quindi volevamo dimostrare che le comunità locali continuano ad essere fermamente contrarie ad opporsi a questa grande opera inutile e devastante. Pensiamo solo che le amministrazioni che si sono susseguite, ma anche i governi, non hanno mai informato i cittadini di questi progetti. Siamo stati noi che abbiamo fatto casa per casa, abbiamo fatto assemblee nelle scuole, nelle parrocchie, dove ci sono state presenti, insomma, centinaia di cittadini, e abbiamo fatto conoscere questo progetto, diciamo, della società Autostrade del Lazio, e da lì chiaramente si è rilanciata l'auto-organizzazione sociale, quindi l'opposizione a questa opera drammatica, perché l'ultimo tratto che hanno approvato il 3 agosto, il tratto che collega la 12, la Roma Civitavecchia, a Tor de' Cenci, e da lì poi continuerà questa autostrada Roma Latina a tre corsie per senso di marcia. Questi 16 chilometri, lor signori dicono che costano 500 milioni, ma spaccano ben 4 quartieri, si trovano su 2 parchi, uno la riserva del litorale romano e l'altro il parco di Decima Malafede, tutto in viadotto, in galleria, con un ponte che scavalcherà il Tevere lungo 1,5 chilometri per un'altezza massima di 25 metri, cioè, quindi, insomma, stiamo parlando veramente di una devastazione urbana, tra l'altro, e anche ambientale, quindi con danni ambientali e sociali pesantissimi. E noi su questo chiaramente abbiamo espresso la massima opposizione da sempre, abbiamo raccolto migliaia di firme, abbiamo mandato anche appelli online al sindaco Lemanno e alla Polverini e a Passera, ma chiaramente loro, facendo gli interessi unilaterali di Impregilo Salini in questo caso, sono andati per la loro strada in maniera unilaterale. Quindi noi sappiamo però che se le comunità, come hanno dimostrato sabato, sono compatte e unite contro questa devastazione, loro signori non passeranno. Difatti la manifestazione ha visto la partecipazione di oltre 1000 cittadini e cittadine di tutte le età, bambini, ragazzi, persone chiaramente più avanzate di età, che in maniera decisa nello striscione d'apertura hanno detto con chiarezza che questa devastazione non passerà, ma la cosa ancora più chiara è che queste forme di ecoresistenza vinceranno, porteranno, insomma, comunque le amministrazioni che vogliono continuare in maniera imperterrita a fare questo, insomma, a pagare un duro prezzo. E quindi a questa manifestazione noi pensiamo di far seguire un presidio permanente sul percorso dell'autostrada, di acquistare, come hanno fatto i nostri fratelli da Notav, un terreno proprio per creare anche un ostruzionismo legale, e quindi fare anche tutte quelle iniziative di azioni dirette che serviranno a spiegare ancora di più e a sensibilizzare, se ancora c'è necessità, insomma, le istituzioni che questa opera, insomma, non deve essere fatta. Benissimo. Tra l'altro, dimmi. No, perché se vado avanti mi interrompi. No, vai tranquillo, non ti preoccupare. Sto cercando di informare. E noi su questo chiaramente abbiamo una proposta alternativa, come potete immaginare. Non siamo sempre quelli, come ci vogliono disegnare, malati di nimbismo, che, insomma, vogliamo spostare il danno a qualcun altro. E abbiamo presentato sia al Ministero delle Infrastrutture sia alla Regione, già da Marrazzo, un progetto di metropolitana leggera Roma-Pomezia-Ardea, e il potenziamento della rete ferroviaria pontina, in particolar modo anche il raddoppio della linea Nettuno-Campoleone, che ancora continua ad essere a un unico binario, quindi con delle percorrenze molto purtroppo rare e condizioni anche di carro bestiame. Quindi questo lo facciamo perché crediamo, e penso che qualunque persona che abbia interesse a risolvere i problemi e che sia in buona fede sa bene che non si, un'autostrada non serve a nulla, insomma, per ridurre i tempi di percorrenza, che purtroppo i nostri cittadini, insomma, che i pendolari sulle auto ogni mattina hanno. Parliamo che ci sono file da Pomezia a Roma per poter arrivare al posto di lavoro, quindi un'ora, un'ora e mezza, quindi bisogna fare la cura del ferro perché vanno ridotti i flussi di auto private, insomma. Quindi mi sembra una cosa molto semplice, però questi progetti che noi abbiamo fatto con l'aiuto di economisti dei trasporti costano un quarto di quanto costerebbe l'autostrada, parliamo di poco più di un miliardo, quando l'autostrada parte con 3 miliardi e 2, e va da sé che gli appetiti degli speculatori, insomma, e di questi pseudo imprenditori guardano a prendersi più soldi possibile e quindi a muovere anche le loro pedine istituzionali, sicuramente vendute ai loro interessi, affinché non si faccia assolutamente un'opera che porti un beneficio, insomma, ai cittadini, e invece deve portare solo beneficio alle tasche di loro signori. Assolutamente, Gualtiero, non sapremo davvero che altro aggiungere. Una cosa ti volevamo chiedere: noi credo che in queste settimane, in questi mesi che peraltro ci porteranno alla campagna elettorale, avremo modo di parlare più diffusamente sia con te, sia con voi, sia con tutti gli altri movimenti che in qualche modo sono similari a quello che è sceso in piazza sabato. Nel frattempo, e nel rimandare a momenti di discussione più larga, per quanto riguarda, diciamo, i vostri le vostre forme di informazione, avete dei siti, avete dei riferimenti su internet, avete delle assemblee più o meno fisse nel tempo, come vi state organizzando? Allora, noi, come dicevamo prima, siamo auto-organizzati e quindi anche autofinanziati. Tra l'altro ringraziamo tutti coloro che ci hanno dato veramente una mano anche a livello economico, perché ovviamente i manifesti, no, i volantini, tutto questo qui, però questo vuol dire, oltre ad avere, insomma, la solidarietà, la partecipazione dei cittadini, vuol dire che anche rafforziamo in maniera coerente la nostra autonomia e indipendenza del movimento. Noi adesso sicuramente vedremo uno scatenarsi, insomma, anche di promesse. Noi l'abbiamo vissuto con Marrazzo, purtroppo, che nel suo programma ci aveva messo che non faceva l'autostrada, faceva la cura del ferro, e poi dopo 6 mesi con Di Pietro, che era allora ministro delle infrastrutture, firmò il protocollo per rifare l'autostrada insieme a tutta la filiera del centro-sinistra, da Rifondazione al PD. Quindi, insomma, noi l'abbiamo pure detto ai nostri amici e compagni, insomma, che dividono la nostra battaglia, di non farci prendere in giro, insomma, di pezzi di carta. Cioè, noi finché non vediamo che il progetto viene messo veramente bruciato, insomma, così noi non diamo fiducia a nessuno. La fiducia non esiste nel momento in cui sappiamo che centrodestra e centrosinistri, insomma, sono per la devastazione. Quindi manteniamo alta la nostra autonomia e anche il nostro distacco da questi balletti elettorali opportunistici, insomma. Comunque noi, i nostri strumenti, come potete immaginare, sono un blog che abbiamo da sempre, e chi ci vuole andare lo può trovare tranquillamente. Roma, in pratica, roma12.blogspot.com, oppure abbiamo le pagine Facebook, abbiamo la pagina su Twitter e via dicendo, oppure possono scriverci al nostro indirizzo di posta elettronica, che è comitato nel corridoio @discali.it, insomma, e possiamo metterli nella mail list e comunque vedere gli aggiornamenti. Adesso stiamo lavorando, come ho accennato prima, per fare questo presidio permanente, che è importante, che siamo in contatto con i nostri fratelli e sorelle della Notav, che ci stanno aiutando, perché ovviamente, avendo approvato il progetto, ci troviamo oggi nel quadro della Tav, insomma, e quindi loro ci danno una mano enorme. In più stiamo lavorando anche per unire insieme a tutti, insomma, gli altri movimenti, quindi ci incontriamo anche con l'altro tratto, che è quel A1, insomma, il famoso Gran Raccordo Bis, purtroppo. E abbiamo fatto un incontro ieri a Cinecittà, proprio per dare una mano a costituire anche lì un comitato, e poi a unire le questioni. Purtroppo, e qui veramente ormai questi sono impazziti, insomma, no, si sono inventati anche un collegamento Orte-Mestre dei 400 chilometri, sì, in pratica, che spaccherebbe tutto l'Appennino, insomma. Perché non bastava la variante di valico. È incredibile, guarda, è allucinante. Uno quando vede queste cose dice: questi sono dei criminali, cioè a questo punto insomma ecco più, insomma, devastatori, sono proprio criminali, perché continuano, parliamo ormai che questo Passera parla di, ha disegnato 900 chilometri nuovi di grande opere, veramente non solo la nostra ma quella che dicevo adesso, quindi veramente c'è bisogno di unirci e di fare un massimo di azione a rete per una forte opposizione condivisa. Noi su questo sappiamo che è importante, quindi stiamo incontrando tutti insomma su questa battaglia, sapendo che davanti abbiamo un ministero che è la Banca Intesa, insomma, se forse mettevano ministero Banca Intesa era meglio, perché sapete tutti Passera chi è, ma anche il vice ministro che è delegato alle infrastrutture era responsabile di Banca Intesa Infrastrutture. Cioè il consiglio d'amministrazione in pratica. Il consiglio d'amministrazione, insomma, loro puntano che chiaramente tutte le opere e i costi lo Stato faccia i mutui, e questi mutui dove si prendono, guarda caso, dalle banche, e quindi chiaramente, e purtroppo alla fine abbiamo pure il bel risultato che queste opere sono un pedaggio, quindi i cittadini oltre il danno ce l'hanno anche a beffa, perché non avranno assolutamente nessun beneficio, ma gli faranno anche pagare il pedaggio per almeno 50 anni come da concessione che gli daranno a questi altrove, insomma, ecco. Quindi credo che insomma l'ecoresistenza deve unirsi, deve ingrandirsi, insomma, e facciamo di tutto per informare, perché l'informazione la possiamo dare solo noi, insomma, perché chiaramente la stampa, no, il messaggero dei vari caltagirone è tempo, difficile che si possa, no, dice, parla di bonarietà, no? Parlano di opere strategiche, parlano di opere per lo sviluppo, no? Da noi distruggono tantissime aree agricole bellissime, insomma, licenziano tanti, purtroppo, contadini, insomma, aziende agricole biologiche, potete immaginare, con lo CO2 andranno chiuse, certo, definitivamente, insomma, no? Però queste cose loro non le dicono, cioè le diciamo noi, ma anche le organizzazioni loro, che sono, cioè la Coldiretti, la CIA, no? Incredibilmente, con un danno occupazionale così pesante, essendo gestita una dal PD e l'altra dal PDL, non si muovono, incredibilmente. Curiosamente, dico, non si muove. Guarda, è vergognoso, cioè, quando noi parliamo per esempio dei sindacati CGIL di Savoia, ma questi da agricoltori, insomma, calcola che una zona come quella che esporta per esempio il kiwi giallo in tutto il mondo, con un'operazione del genere verrebbe disarticolate centinaia di ettari, insomma, certo, no? E purtroppo, insomma, fanno il gioco, capito, di questa gentaglia, ma comunque noi insomma gli stiamo dando abbastanza filo da torcere fino all'ultimo. Il nostro logo è un contro, è proprio un'autostrada che azzanna il territorio, è un omino che sta lì davanti. Quell'omino sono i tanti di noi che, se dovesse succedere che arrivano le ruspe, insomma, lo diciamo qui e non lo neghiamo, insomma, ci metteremo davanti anche alle ruspe.